Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 prodotta da Radio Big World. Andiamo ad analizzare brevemente quello che è successo a cavallo della ultima settimana dell'anno trascorso e la prima dell'anno neonato, anche perché gli argomenti di interesse si sono inevitabilmente sprecati. Partiamo dal primo, evidentemente il più spinoso, che già avevamo avuto modo di vedere anticipato nelle fasi conclusive del main event della notte di Natale, le polemiche arbitrali. Due casi veramente singolari nella settimana appena trascorsa, in due partite che vale la pena indubbiamente raccontare. La prima di queste giocata al TD Garden il 28 dicembre. Si trattava della sfida tra gli Houston Rockets di James Harden ed i padroni di casa di Boston, le due squadre più accreditate della Lega al momento, dietro alle solide Cleveland e Golden State. La partita sembra essere sul punto di deludere le aspettative, proprio per i fans dei Celtics, perché Houston avvia in modo devastante dominando il primo quarto 32-12 e chiudendo la prima frazione sul 62-38. Boston toccherà anche uno svantaggio massimo di 26 punti nella gara, apparentemente destinata ad affondare sotto i colpi dei soliti James Harden, che chiuderà la sfida con 34 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, ma anche 7 su 27 dal campo con 8 palle perse, e di un Eric Gordon da 24 punti. Malgrado questo, i Celtics iniziano a macinare punti riavvicinandosi seriamente nella seconda metà di terzo quarto, arrivando punto a punto nel finale grazie al solito Kyrie Irving da 26 punti totali, ad un buon Rozier dalla panchina, a 19 punti del rookie Tatum, ad un Horford che segnerà il canestro decisivo nella partita, ad un Marcus Smart capace di annientare il barbone anche psicologicamente. Proprio questi ultimi due giocatori della squadra di casa determineranno la clamorosa rimonta che sfocerà nel 99-98 finale, con due clamorosi errori proprio di Harden nel finale, divenuti centrale nella questione relativa alle polemiche arbitrali di cui già avevamo accennato in avvio. Sì, perché con i Celtics a 3 punti di svantaggio ed il tempo destinato a scadere, a seguito di una splendida rimessa che vede Tatum schiacciare la palla nel canestro per riavvicinare le due squadre, inizia il delirio di Harden. Gli arbitri lo pescano mentre spintona via Smart, che ovviamente accentua la caduta, per liberarsi dalla sua difesa e ricevere la palla dalla rimessa dal fondo. È fallo in attacco. Sul possesso seguente Boston passa in vantaggio proprio con Horford, e lo stesso Smart riprende da subito a punzecchiare la star avversaria, perché il tempo per l'ultimo tiro ci sarebbe ancora ovviamente per gli Houston Rockets. Gli arbitri ammoniscono immediatamente i due, ed in particolare Harden, che stupidamente e con gli occhi dei direttori di gara addosso spinge di nuovo uno Smart che si frappone fra lui e la palla, ottenendo il secondo fischio a svantaggio e regalando di fatto la gara a Boston. Ora, le due decisioni potrebbero essere dubbie, magari principalmente il primo fischio, o quantomeno argomento sentito di discussione, in particolare per la decisività dei fischi. In realtà, se volete la mia opinione ovviamente, la stupidità di Harden nel replicare una sostanziale e roboante cazzata fatta dopo la schiacciata di Tatum, o comunque una cadere in una fregatura con tutte e due le scarpe, diciamo, è veramente clamorosa. La polemica sulla quale il barbone insiste nel dopogara sta comunque nel numero degli arbitri, visto che la cosiddetta terna si è trovata orfana di uno del terzetto proprio in precedenza al fischio iniziale, a causa dell'infortunio di uno dei tre arbitri ovviamente. Secondo l'aspirante MVP, che a mio avviso resterà tale anche quest'anno, è scandaloso che la NBA non abbia prestato attenzione ad una sfida tanto importante, garantendo la presenza di eventuali sostituti per lasciar svolgere l'incontro con un terzetto potenzialmente abile e possibile. A mio avviso, purtroppo per James, in una gara tanto importante sarebbe però opportuno mettere in moto anche il cervello, o quantomeno lasciarlo in moto nei possessi finali, piuttosto che farsi beccare con due falli offensivi consecutivi in una manciata di secondi. In ogni caso, come è avvenuto qualche giorno prima, la Lega ha preso posizione, quantomeno evidenziando la bellezza di 5 infrazioni di passi non fischiate a Boston nell'ultimo minuto di partita. Vabbè, comunque, la sconfitta con i Celtics è arrivata all'interno di una serie di 5 sconfitte consecutive per D'Antoni e compagnia, conclusasi con la spettacolare sfida dello Staples Center di Los Angeles, dove Harden ne mette 40, ma si infortuna, tanto da dover restare a riposo per le prossime 2 settimane. Ci pensa Chris Paul a portare Houston alla vittoria dopo 2 overtime di fronte a dei gagliardissimi Lakers. altra partita da polemiche nel finale, quella spettacolare tra Oklahoma City Thunders e Milwaukee Bucks della notte seguente. C'è da dire che in questa fase, come già anticipato nelle puntate precedenti, OKC è una delle squadre del momento, soprattutto grazie al risveglio del suo numero 0 Russell Westbrook, che ha giocato un mese di dicembre strepitoso, chiudendo sostanzialmente con una tripla doppia di media e che si sta stagionalmente attestando sui 25 punti per gara, 10 assist e 9.6 rimbalzi al momento in cui stiamo registrando, ed è mercoledì pomeriggio al solito. Sostano al quinto posto della Western Conference con un record sostanzialmente simile a quello della stagione passata, seppur siano reduci da due sconfitte nelle ultime due gare, la prima di queste è proprio quella con i Milwaukee Bucks. Nonostante questo, il record nelle ultime 10 gare di OKC è di 7 vinte e 3 perse e, come mi preme ripetere, coincide con una salita di livello proprio di Russell Westbrook, il quale si sta mantenendo sostanzialmente sulle medie, sull'incidenza di squadra dello scorso anno, quando veniva guardato con meraviglia dal mondo intero. Quest'anno effettivamente viene clamorosamente non calcolato nelle inutili diatribe sugli MVP della Lega, fuori da un potenziale top 5 del top ranking, ma anche contro i Bucks comunque ne mette 40 con 14 rimbalzi e 9 assist. E per la cronaca, visto che siamo a farla, nell'ultima notte dell'anno replicherà con 38 punti, 15 rimbalzi e 11 assist, chiudendo un anno solare statisticamente difficilissimo da replicare in effetti. Insomma, contro Milwaukee è sempre lui, con una tripla ad impattare la gara ad una manciata di secondi dalla fine, ma l'ultimo pallone è nelle sapienti mani di Giannis Antetokounmpo. Il greco, giocandosela in un consueto e potenzialmente immarcabile 1 contro 1, riesce a prendere la linea di fondo al difensore, prima di depositare nel canestro il decisivo 97-95 per i Milwaukee Bucks, praticamente a tempo scaduto. Ma comunque, come è visibilissimo, quantomeno come era visibilissimo anche dal vivo, ma soprattutto come è visibilissimo dai mille replay a seguire, anche ovviamente negli schermi dell'arena dopo il suono della sirena finale, nello sfuggire al proprio antagonista, Giannino mette clamorosamente un piedone fuori dal campo, secondo le regole NBA ovviamente, perché comunque pesta nettamente la linea. Canestro quindi da annullare, ma instant replay impossibile da opzionare secondo gli arbitri, in quanto osservabile solo dopo uno stop al gioco e quindi se consegue ad un fischio o al suono di una sirena. In questo caso Giannis segna con poco più di un secondo sul cronometro, per la verità, con la palla che viene comunque rimessa in campo dal fondo dagli avversari e quindi il gioco non viene fermato e gli arbitri non possono riguardare l'azione decisiva, benché comunque la stiano vedendo in quel momento sugli schermi del palazzetto e sia chiaro che il canestro sarebbe da invalidare. Questione bizzarra, quindi, evidentemente da correggere se si spera soprattutto che l'instant replay possa davvero essere garanzia di errore minimo di incidenza finale, però nel dato di fatto viene riconosciuto da tutto il mondo che quel canestro non sarebbe valido, ma quel canestro risulta decisivo perché è impossibile tornare sopra la decisione. Lasciamo adesso da parte per un attimo le polemiche arbitrali e parliamo di ritorni. Questa settimana è tornato Blake Griffin con i Los Angeles Clippers, reduci sostanzialmente da 5 vittorie nelle ultime 6 gare, con un Milos Teodosic sempre più dentro il sistema NBA e non potrebbe essere altrimenti con il cervello che si ritrova, ed un super Lou Williams, 40 punti partendo dalla panchina per lui nella vittoria contro gli Hornets. Poi, grande ritorno nella ultima sfida annuale di Golden State per Stephen Curry, con una settimana di ritardo dalla Christmas Night, ma con una vittoria finale per 141-128 su Memphis alla Oracle Arena. 38 punti in appena 26 minuti di impiego per lui, al solito amante di rientri clamorosi ed in grande stile, con 10 triple a segno su 13 tentativi, una prova destinata a far impallidire i 27 punti di un Marc Gasol che, dall'altra parte, gioca una gara sostanzialmente priva di errori in 28 minuti in campo. Per concludere, notiziona attesa che arriva come un fulmine a ciel sereno per i fans di Cleveland. Finalmente rientra in campo Isaiah Thomas nella prima sfida del 2018 per i Cavaliers contro Portland. Il calendario di avvio di anno, per la verità, metterebbe di fronte i vice campioni del mondo proprio a di Boston Celtics, con i quali il piccoletto giocava lo scorso anno, prima di venire scambiato con Kyrie Irving appena due notti dopo. Ma è stato immediatamente dichiarato che la seconda gara da rientro sarebbe stato tenuto a riposo per osservazione. Intanto però il piccoletto ex Boston si presenta alla Quick Loans Arena ufficialmente emozionato, dichiarando di sentirsi un rookie all'esordio. non parte in quintetto a vantaggio della consueta presenza in starting five per José Calderón, ma si presenta in campo nella seconda metà di primo quarto tra gli applausi entusiasti del suo nuovo pubblico di casa. L'emozione viene così superata con un assist per Jay Crowder, un tiro in jump andato a segno ed una classica penetrazione con fallo subito. Insomma, Isaiah è tornato, ma Pola non ci sta a svolgere il ruolo di sparring partner con Yusuf Nurkic e Damian Lillard che scavano parziali a proprio vantaggio e che sembrano mettere a rischio la prima vittoria dei Cleveland con Thomas dalla rientro nella stagione. Ovviamente così non sarà, anche perché i vice campioni hanno pur sempre LeBron James, seppur in una notte dove finalmente l'attenzione su di lui appare limitata, chiudendo comunque con un consueto fatturato di tutto rispetto, 24 punti, 8 assist, 6 rimbalzi e 4 recuperi. Accanto a lui 19 di Kevin Love, 17 di Jay Crowder con 4 triple a testa questi due, 15 in 18 minuti per Dwayne Wade ed il fatturato del piccoletto Isaiah Thomas, 19 minuti, 6 su 12 dal campo con 3 triple, 3 assist e 17 punti totali. Cleveland vince 127 a 110, dando il via così ad una nuova fase della stagione, quella in cui la squadra inizierà definitivamente ad assomigliare a come era stata immaginata in estate, quella in cui la convivenza fra Thomas e James sarà argomento all'ordine del giorno, quella in cui sostanzialmente manca soltanto quel Derrick Rose sparito dai radar ormai da tempo per completare il roster della squadra che ambisce a battere Golden State nella finale di stagione, ovviamente. In ogni caso, momento simbolicamente importante quello della notte appena trascorsa dal momento in cui stiamo registrando, senza guardare troppo avanti in prospettiva della serie, comunque rispetto ai film mentali che ci siamo fatti all'inizio stagione, manca solo davvero l'infortunato Gordon Hayward per avere tutte le top squadre potenzialmente al completo, e questo avviene sostanzialmente al giro di boa di metà stagione, perché le 41 gare disputate per tutti sono veramente ad un passo. Proviamo quindi rapidamente e dal solito per gioco a determinare gli award di metà stagione di NBA Week, i cosiddetti mid-season awards, che ci tengo a sottolineare né esistono né valgono ovviamente niente. Sull'MVP al momento, come saprete dalle puntate precedenti, secondo me nessuna discussione sull'onnipotenza di LeBron James e c'è poco da dire a riguardo ulteriormente. Rookie dell'anno invece è al momento, per me, un testa a testa tra Ben Simmons e Donovan Mitchell di Utah, con Tatum di Boston e Kuzma dei Lakers un gradino sotto. Oggi come oggi direi comunque il fenomeno dei Jazz, molto più completo di un Simmons impressionante ma totalmente privo di tiro dalla distanza, mentre Donovan Mitchell non solo tira bene ma letteralmente vola, giocatore assolutamente pazzesco in questo momento in vertiginosa ascesa anche a livello statistico. Giocatore più migliorato, indubbiamente Victor Oladipo. Me ne verrebbe in mente una lista per la verità, ma rispetto al neo giocatore dei Pacers, stiamo parlando di quello che lo scorso anno appariva come un talento totalmente incasinato, che nel frattempo, a distanza di pochi mesi, si è trasformato in nient'altro che un All-Star. Quindi, anche qui, a mio avviso, c'è poco da discorrere. Difensore dell'anno sarebbe difficile non tornare con Draymond Green, seppur il compagno di squadra Kevin Durant, almeno statisticamente, si stia facendo notevolmente vedere a suon di stoppate ed anche a livello di incidenza sui tiri da due degli avversari. In questa statistica è secondo soltanto dietro a Joel Embiid. L'orso ballerino comunque ha recentemente dichiarato che, oggi come oggi, lui voterebbe proprio per KD in questa speciale categoria. Quindi, più di così, non possiamo assolutamente dir niente, per cui se lo dice lo stesso Draymond Green, diciamo che difensore dell'anno Kevin Durant. Per quanto riguarda il sesto uomo, lo abbiamo anticipato precedentemente, Lou Williams è assolutamente devastante, viaggia oltre i 20 punti di media, quindi anche qui c'è poco da discorrere. A livello invece, per concludere, di coach dell'anno, difficile andare con qualcuno al momento, trattandosi comunque di una speciale categoria dove il risultato di squadra, anche comunque in termini di sorpresa o comunque di evoluzione di gioco e risultati, è fondamentale. Quindi va visto un po' alla fine quantomeno della stagione. Però proprio per questo io al momento parlerei di Brad Stevens di Boston, capace di far fronte al tragico infortunio di Gordon Hayward in avvio di stagione, mantenendo la propria squadra ai vertici della Lega e della Eastern nonostante tutto, soprattutto inserendo in rotazione molti giocatori che stanno contribuendo in modo decisivo, favorendo anche la crescita di talenti come Jalen Brown ed il giovane rookie Tatum, cambiando comunque, non dimentichiamocelo, praticamente tutta la squadra rispetto allo scorso anno, migliorando apparentemente il record ed i risultati anche in termini di gioco, a seguito di un'annata in cui Boston aveva comunque fatto più che bene, quindi non male assolutamente per adesso per Brad Stevens e per i Boston Celtics. Benissimo, anche la prima puntata di NBA Week del 2018 si conclude qui. Colgo l'occasione per ringraziarvi e ricordarvi di nuovo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama appunto NBA Week, per reperire il link ai podcast e alle trasmissioni oppure aggiornamenti dell'ultimo minuto. Per ascoltarci comunque gli appuntamenti settimanali restano i seguenti anche per il 2018: tutti venerdì sera su Flusso Streaming di Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio al 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo la settimana prossima.